in italiano? Sì, prego. Ero pronto in catalano, ma in italiano. No, grazie, veramente piano. Grazie. Per la piano. Australia, quindi no. No, siete molto gentili, io mi sento molto contento di essere qui oggi. Siete gentili, generosi, belli, buoni, bravi. Succede così. In Italia andiamo a parlare un po' in giro per l'Italia della nostra esperienza. Non sappiamo perché, ma ci chiamano a parlare della nostra esperienza. E mai pensavo che succedesse a Barcellona, perché ovviamente ci sono dei miti e voi sapete che Barcellona è un mito, no? Allora l'esperienza siamo noi che certe volte vorremmo che qualcuno di Barcellona venisse a parlare. Ecco, però Bologna è un mito. Capite la parola mito, no? È un mito decaduto. E quello che noi abbiamo fatto in questi 4 anni è quello di vedere se era possibile risvegliare un'anima della città. Ok, allora io sono ingegnere e quindi siamo tutti, è nato un gruppo di tecnici nel 2001, un gruppo di tecnici, ingegneri, architetti, inizialmente solo 10 ingegneri architetti. Eravamo molto diversi fra noi, lo dicevo oggi a Maria, la caratteristica principale era questa, diversissimi, culturalmente, politicamente. Diciamo che eravamo quasi tutti giovani, ecco, questo un po' era 8 su 10 erano meno di 32 anni, poi due invece avevano 50 anni, 55 anni. E la cosa che avevamo voglia di fare era di iniziare nella nostra città a parlare di urbanistica, perché era 10 anni in cui non si parlava più di urbanistica, di città. Noi di urbanistica, poi a un certo punto abbiamo smesso di usare la parola urbanistica, parlare di città. Ecco, non è il caso di Barcellona, io tutte le volte che vengo qua vedo che si parla di città in tutti i giornali. Non so se si parla bene o male perché non capisco quello che leggo, però non è il caso. Però c'era un elemento importante a Bologna. Bologna ha una tradizione di partecipazione popolare fortemente radicata. A Bologna sono nati, in Italia, i quartieri, si capisce quartieri, sono nati a Bologna. E sono nati perché nel 1955, questo è importante, il sindaco comunista e l'oppositore della Democrazia Cristiana, che era il partito di destra cristiano, i grandi nemici, insieme a Bologna costruirono un luogo di partecipazione che era il quartiere, perché era fondativo, era un elemento fondativo costituzionale, come dire, cioè una base su cui puoi fare lotta politica, ma senza quella base non era possibile fare lotta politica. E questo è stato un patrimonio per Bologna molto importante. La lotta o il confronto o il lavoro principale dei quartieri fu sulla città, sull'urbanistica, per cui Bologna ha avuto degli anni e io vi voglio raccontare le nostre storie facendovi vedere 4 video, però appunto prima 20 minuti vi voglio parlare 20 minuti di questi 30 anni in 20 minuti, per cui si può. Mi piace, è importante perché c'è stato un momento in cui, dopo tanta discussione, si è interrotta e per 10 anni non si è più parlato di città, ma soprattutto non si è più parlato di diritti di cittadinanza, che era questo, capite, diritti di cittadinanza? quello che il cittadino ha diritto di avere per poter svolgere la propria azione, la propria funzione, la propria vita. Per cui, ad esempio, dal termine urbanistica siamo passati al termine diritti di cittadinanza. Però quello che è successo dal 2001 in poi ve lo racconto dopo questi pochi minuti. Ma molto, molto semplicemente, questi sono i tre periodi bolognesi. Chiamiamo così: il primo è il periodo della luce, fra virgolette, il secondo è il periodo del buio, e poi c'è il periodo dell'oggi, che non sappiamo bene cos'è. Ok? Nel periodo della luce, Bologna ha insegnato all'Italia che esistevano dei diritti per i cittadini e che la maggior parte di questi diritti potevano essere garantiti se la città si organizzava fisicamente. Il diritto alla sanità, capite sanità? Il diritto alla scuola sono cose banali, semplici. Per noi, per voi penso, per noi sono... E Bologna ha inventato l'urbanistica italiana, molto concreta, molto pratica. Bologna è una città molto pratica, inventando regole per l'urbanistica perché la città avesse spazi dove c'erano questi. Per cui, ecco, pochissime carte tecniche. Quando Bologna fa questi ragionamenti per i propri cittadini, ipotizza un piano urbanistico per tutta la regione Emilia-Romagna. Dopo la regione può fare diverso, ma Bologna, per garantire ai suoi cittadini una certa qualità di vita, propone un disegno strategico regionale. La regione ha 300 comuni, Bologna è uno. Bologna si assume la responsabilità di fare questo nel 1967. Poi la regione può fare altro, però io disegno. I risultati quali sono stati? Adesso lasciamo perdere tutte queste cose, molto belle, ma per l'ingegnere forse. Ok? Questi sono i risultati. I risultati sono stati che Bologna nel 1970 circa, in quegli anni, ha fatto alcune cose importanti. Prima di tutto ha tutelato il territorio naturale. Non è cosa poco, ad esempio la collina. Ok? È l'unica città italiana con la collina, polmone verde della città. Ha recuperato il centro storico. Nel 1970 inizia il recupero del centro storico. È il centro storico medioevale più grande d'Europa. Per cui potete capire che cosa vuol dire. Ha recuperato il centro storico con degli interventi di edilizia economica e popolare. Attenti quindi al tema sociale. Ha costruito quelle macchie blu, edilizia economica e popolare per la città. Vedete quante sono quelle macchie? È molto rispetto al resto. Ha inventato l'edilizia economica e popolare italiana. Tutto in questi pochi anni. Ha fornito alla città i servizi, cioè le scuole, i parchi. El dinero para hacerlo, dices que venía. ¿Cómo impuestos de propios de la ciudad? In parte sì. Perché si costruirono le cooperative di abitazione, che allora erano cooperative no profit. Vale. Oggi sono profit. Allora erano no profit. Y el centro histórico no se hizo un centro comercial. E se no? No. Come passa? Oggi è il centro commerciale. Allora, ecco, vedete, il centro storico è molto, molto grande. Qualcuno di voi è stato a Bologna? Uno. Adesso è italiano. Sei italiano, fantastico. Ok, allora se dico parole che non si capiscono, sì, vedete. Sì. Ok, questo è uno di quei quartieri uno di questi quartieri qua, di questi blu, è questo. Okay. Perché è questo? Blu è quartiere. Sì, no, di quartieri, barrio, uno di questi zone popolari. Sì, però todo azul è barrio popolare. Sì, quartiere è un'istituzione comune. 9 quartieri, istituzioni, con consiglio di quartiere, presidente di quartiere, distretto, esatto. No, con aiutamento differente, sì, distretto. Il quartiere è l'istituzione che hanno creato nel 1955 comunisti e democristiani insieme. Invece questi sono zone, si usa la stessa parola quartiere, però zone, e ok, zone residenziali, zone. Queste zone sono molto funzionaliste, razionaliste, di stampo anni 20, di grandissima qualità architettonica, degli spazi architettonici, che è un po' diverso, moltissimi servizi. Io ho preso questo perché abito qua. In questo momento lì c'è mia figlia che dorme. Ma quasi tutti i quartieri. Ecco, per l'Italia è abbastanza importante perché il termine PEP, questi sono tutti i quartieri PEP, edilizia economica, è un termine dispregiativo. Brutto. In Italia si dice abito nel PEP, abito in un brutto posto. A Bologna si dice abito nel PEP, abito in un bel posto. E chi abita nel PEP è perché ha molti soldi oggi. Io ho molti soldi. Io purtroppo non ho molti soldi, ho un padrone di casa che mi affitta la casa un padrone di casa molto buono. Allora. Questo qui per dire molto, adesso se qualcuno è appassionato io lo racconterei con più tempo, però questi qui sono gli anni della gloria bolognese, ma non esagero quando dico gloria, ecco, lui che è italiano può testimoniare, cioè Bologna rappresenta per l'Italia un modello positivo, perché ha fornito una qualità della vita superiore e l'ha fornita con l'urbanistica. Cioè, l'urbanistica è stato l'assessore più famoso, più importante di Bologna, fu un urbanista, si chiama Giuseppe Campos Venuti, è un nome che anche in Spagna è abbastanza conosciuto, e viene qui spesso a parlare, adesso è vecchio, ha 80 anni, però è a Bologna, se si usa il termine urbanistica, si usa un termine positivo. Il termine urbanistica è un termine positivo. Però ecco, adesso saltiamo e adesso arriviamo. Ecco, però io non so se sono le cose di cui siete interessati, ditemi se. A un certo punto però succede una cosa. Negli anni 80 in Italia, ma non solo in Italia, sicuramente anche in Gran Bretagna, anche negli Stati Uniti, con la Thatcher e con Reagan, Mrs. Thatcher e Mr. Reagan. C'è un periodo di incremento dell'attività economica, per fortuna, quindi un incremento del benessere collettivo e una disattenzione, diciamo così, ai diritti di cittadinanza. Non parlo di diritti civili, è un po' diverso. Parlo proprio di diritti un po' più concreti, un po' più fisici, diritti di cittadinanza in senso sì democratico, ma quella democrazia più, più diretta col cittadino, più evidente. È ovvio che i diritti di cittadinanza sono garanzia anche di diritti civili, che sono altre cose. Per cui negli anni Ottanta si viene a perdere la tensione sui diritti civili, di cittadinanza civile, perché l'interesse diventa più particolare verso verso la, l'economia individuale, diciamo così. Per cui Bologna a metà degli anni 80 fa una scelta veramente forte, una scelta, un'elezione. Su tutte le volte fatti con un'opzione, no? Sì. Nel 1985 Bologna fa un nuovo piano regolatore. Bologna fa, usa, da noi non è come da noi si fanno molti piani regolatori. Bologna fa un nuovo piano regolatore nel 1985, però questa volta ci mette 4 anni per approvarlo, cioè lo approva nel 1989, e in una notte nel consiglio comunale vengono diciamo raddoppiati, capite, raddoppiati il numero di alloggi di vivienda che si possono costruire in una notte, okay? Nel consiglio comunale, e tutto il resto di manuale, infrastrutture, servizi, alloggi popolari, scuole, tutto il resto di manuale. Come? 1989, quando? Dopo un periodo lungo di interessi individuali, diciamo così, che io non sto condannando. Io personalmente vi dicevo che il gruppo dei Celestini è fatto di persone veramente differenti, dal molto movimentista al molto moderato, per cui in questo momento non sto esprimendo un giudizio negativo nei confronti dell'interesse individuale di quegli anni. Dico che ci sono stati molti anni di interesse individuale. Nell'89 ci fu, che per Bologna è molto significativo, perché Bologna la sua ricchezza l'ha costruita su una corretta organizzazione della città, c'è questo raddoppio. Nessuno lo sa, perché dopo 10 anni di interesse individuale, se qualcuno lo diceva, non c'era nessuno ad ascoltare, perché si era perso il linguaggio, si era perso un linguaggio collettivo su che cosa voleva dire non fare più un progetto per la città, ma fare un progetto per l'interesse privato, per quella cooperativa che da no profit era diventata profit negli anni 80. E anche qui non è negativo che ci siano cooperative profit. Ecco, quella scelta lì, quindi 1980, no, non voglio essere troppo, perché faccio finta, simulo di essere moderato. No, quindi 1990, noi nel 1990 abbiamo... No, un poco rapido. Ok, quindi ciao. Non mi ricordo, ecco qua. 1984. Per fare il piano urbanistico comunale del 1985, prima si fa un piano urbanistico metropolitano, regionale. Questa è una tradizione importante bolognese, molto importante, ok? Per cui siamo ancora nella tradizione positiva, ma in realtà questa tradizione non collima con l'interesse sociale, perché è diventato un interesse individuale. Per cui quel piano del 1985, nel 1990, non è più un progetto per la città, è un progetto per l'interesse privato. In quel solco, a un certo punto succede che nel 1997, e siamo sempre con giunta di sinistra, 1997, c'è un inizio di deregulation dell'urbanistica, per la prima volta a Bologna, e cioè tante aree che vengono messe, aree edificabili, che vengono messe senza essere pianificate, cioè senza che rispondano a un interesse pubblico, perché l'urbanistica italiana, penso anche quella spagnola, deve rispondere a un interesse pubblico, cioè io metto un'area edificabile solo se dimostro che c'è un interesse pubblico. È ovvio che matematicamente lo posso dimostrare come voglio, parlo politicamente non c'era un interesse pubblico. Per cui 1997 inizia a mettere dentro al piano regolatore, non più con la progettazione ma con una pala, aree edificabili. Nel 1989 succede una rivoluzione a Bologna, è una cosa che va, mette in crisi la città come non era mai successo. Si perdono le elezioni, la sinistra perde le elezioni. Ecco, Bologna è stata, cioè, sempre comunista, sempre, ed era il simbolo totale italiano del comunismo che funzionava. Esatto, esatto. Perché a Bologna la gente non era di sinistra, la gente era pratica e vedeva nella sinistra un modo per vivere bene. Nel 1989 la sinistra, cioè il partito di sinistra, perde. Ed è questa veramente una cosa che non vi dico, gente che piangeva per strada. Un disastro, ma veramente, io ho delle foto che non ho con me, mi fatto, cioè, oltretutto è stata una cosa abbastanza importante per tutta la sinistra europea e mondiale, cioè è una notizia che è andata in tutti i giornali del mondo, perché non era, nessuno avrebbe scommesso neanche una lira che sarebbe successo, tutti erano sicuri che avrebbe vinto, tutti, proprio era impossibile che perdesse, perché Bologna era... Questo qui ha creato un terremoto. L'anno dopo la sinistra perde e vince Berlusconi in Italia. Okay? Cioè crea un terremoto a sinistra. Ci sono teste che cadono dappertutto. Va sulla destra. Cosa fa la destra nel campo dell'urbanistica? Fa praticamente le stesse cose che faceva la sinistra. La stessa destra? Che partito? La destra è in Italia, c'è Forza Italia, c'è Bologna. Forza Italia. Forza Italia e Alleanza Nazionale, sì. Ma il sindaco aveva una lista civica, si dice in Italia. In che anno era? 99. Per cui il simbolo, ecco, attenzione, Bologna è piccola, perché Bologna città ha 400.000 abitanti, l'area metropolitana 1 milione, per cui non è tanto grande, ma nonostante sia così piccola, appunto è fortemente simbolica per la politica, per l'istituzione italiana. Va bene, cosa fa? Adesso devo rifare, scusate, ma... La sinistra nel 1997 mise nel piano regolatore, senza progettarle, con la pala, le aree rosse, 27 aree rosse. La destra nel 2001 mette nel piano regolatore, cioè 3 anni dopo, 27 aree blu, sono quelle blu. Casualmente lo stesso numero, senza rifare il progetto. Ricordate che il progetto, quello del 1989, era già sbagliato in partenza, perché prevedeva il doppio di abitazioni e quindi la metà dei servizi, delle infrastrutture per far funzionare la città, per garantire equità in città. Negli anni 90 Bologna perde qualità della vita. Ecco, nel 2001, e qui siamo arrivati nel 2001, queste 10 persone si convincono che la qualità che si è persa a Bologna si è persa per scelte urbanistiche sbagliate e si convincono di iniziare a raccontarlo alla città. Ora però con un processo faticoso, perché c'era chi voleva raccontare, cioè alla fine si decise di raccontarlo non a chi era interessato, ma a chi tendenzialmente non era interessato, cioè a raccontarlo nel modo più popolare, più semplice, forse anche più populista, ottimo, più populista forse. Grazie. Ecco, scusatemi se magari uso parole molto nette, uso la voce, ma ho paura che con la lingua non ce la faccia molto bene. Ecco, allora, cosa facciamo? Nel primo maggio 2001 convochiamo una riunione, sì? Cioè chiamiamo delle persone per comunicare queste nostre idee. Cioè l'idea, ecco, attenzione, c'è la destra al governo, per cui è più facile, okay? Molto più facile, non sono amici, anche se però noi appunto eravamo, c'era anche qualcuno di destra, ma era deluso, però quindi chiamiamo, e a questa riunione vengono 50 persone, per cui raccontiamo le cose, sono abbastanza condivise, però attenzione, questa analisi che vi ho fatto, 1990, 97, 2001, non interesse pubblico, era un'analisi che non veniva detta pubblicamente, cioè la si diceva, ma nessuno pensava, aveva questi giudizi, pochissimi avevano questi giudizi, cioè nella sinistra si continuava a pensare che fosse giusto quello che era stato fatto, che i problemi erano altri. Nel 2001 si decide e si inizia un lavoro. Inizialmente siamo tutti tecnici, queste 50 persone sono tecnici. Il lavoro inizia un po' strano, ma a settembre 2001 decidiamo di fare una cosa, cioè di iniziare a fare i tecnici. Quindi, però prima di fare i tecnici facciamo un primo documento che è un manifesto dei diritti di cittadinanza, un manifesto molto semplice, ma siccome appunto magari a fare i manifesti non siamo molto bravi, quello che abbiamo fatto è stato studiare e fare una cosa brutta e pesante. Abbiamo organizzato un seminario in montagna, oltretutto, per raccontarci questi studi. Un giorno di studi e il secondo giorno per confrontarci, per dire come comunichiamo questi studi. Cioè, la nostra città, se noi andiamo giù e raccontiamo le cose, anche se siamo belli e bravi, nessuno ci ascolta. Cioè, come facciamo? Ecco, ricordatevi che però Bologna appunto aveva questo humus nascosto di partecipazione, di voglia di partecipazione. Bologna è facile, cioè fai così e la gente inizia a sentire, a ascoltare, a leggere. Ok. Allora, la prima cosa che facciamo è una conferenza stampa. Ecco, però questi qui sono passaggi molto sofferti, molto sofferti. Questa conferenza stampa va bene, nel senso che il giorno dopo su tutti i giornali c'era la nostra notizia. Qual era la notizia? Che eravamo nati, che c'era un manifesto di diritti di cittadinanza, però vabbè, tutti lo sottoscriverebbero, c'è scritto voglio bene alla mia mamma, tutti vogliono bene alla mamma, perché e i diritti, chi dice no ai diritti? Però raccontammo anche un giudizio, cioè esprimemmo un giudizio sull'operato della sinistra dal 90 al 99 e su quello che la destra stava iniziando a fare, cioè quelle palle brutte. E lo esprimemmo con cognizione di causa, con numeri. Cioè, non erano più giudizi personali e intuizioni, così come il primo maggio 2001 quando ci eravamo incontrati, ma erano diventate dimostrazioni. Ovviamente dimostrazioni raccontate dai giornalisti, però non ci bastava. Allora, nel 2002 decidiamo di iniziare un'attività invece più aperta. Ecco, però non è un'attività partecipativa in senso tradizionale, è un'attività informativa. Cioè noi ritenevamo che il problema principale fosse l'informazione. E cosa succede? A giugno del 2002 organizziamo sono un po' di articoli. Ecco, considerate che per 10 anni non c'è stato mai nessun articolo sull'urbanistica a Bologna. Questi sono articoli di 3 mesi, per cui ecco, una cosa molto importante è che noi appunto dicevamo, cioè il messaggio principale è: cittadini, noi stiamo soffrendo molto, perché nel 99 abbiamo fatto quel voto che è stata una sofferenza per Bologna, e Bologna ha pianto, per cui evidentemente stiamo soffrendo, stiamo soffrendo molto, cioè la città soffre perché sono state fatte scelte sbagliate. Il welfare urbano di Bologna, famoso in tutta Italia, è al tramonto. Questo qui è il giornalista che l'ha scritto così, lui non l'ha scritto, ma ha capito bene il giornalista che cosa volevano dire. Per cui è stato, devo dire che il passaggio da quel seminario tecnico alla comunicazione giornalistica, che è durato 4 mesi di preparazione, è stato alla fine efficace. Perché questo qui è stato il giorno dopo. Ad esempio, Campo Svenuti, che è questo famoso urbanista italiano, anche lui, che lui è di Bologna, ha iniziato e non, era anni che non parlava di Bologna, lui. Erano anni. Ha iniziato a intervenire, così come ha iniziato. Cioè, è iniziato una discussione. Pecci, non chi è Pecci, non è il giocatore, è uno che a Bologna era a favore di Guazzaloca, il nuovo sindaco di destra, inizia, è uno di destra Pecci, inizia col nostro materiale a capire alcune cose. Per cui la metropolitana proposta da Guazzaloca, Pecci, uomo moderato di destra, ma insomma abbastanza interessato a capire le cose, inizia a capire che ci sono dei problemi nel progetto. Cioè l'informazione inizia a essere un'informazione di merito. Okay. Va bene, questi sono il libro. Noi prendiamo alcuni casi emblematici, come ad esempio questo, no? Questo qui è un caso molto emblematico, perché è un'area che entra, è una di quelle aree colorate, entra perché è dichiarato che è un'area degradata, fortemente degradata. In realtà è un'area di una cooperativa rossa molto importante, una cooperativa un po' misura, non è degradata, è un campo agricolo. Quindi è facile dimostrare che non è degradata. Per cui ai cittadini racconti queste cose facendole vedere con delle immagini e ci costruiscono un palazzo. In realtà sono 4 palazzi di 300 alloggi, ok? Dov'è costruito? A 60 metri dalla tangenziale autostrada di Bologna, che è il nodo italiano principale, quindi a 60 metri dal luogo più inquinato, da uno dei luoghi più inquinati d'Italia, acustico e atmosferico. Noi sappiamo fare quei conti, quindi andiamo a misurare. Ecco, noi chi siamo? Non mi sono dimenticato di dire chi siamo. Noi siamo veramente gente normale. Cioè, c'è qualcuno molto incazzato, come si dice? Arrabbiato, ma ci sono anche persone molto meno arrabbiate. È una situazione, cioè, per cui hanno provato ad attaccarci in tutti i modi. Siete comunisti? No, non è vero. No. Scrivete le cose sbagliate? Non è vero. Cioè, proprio, e facevamo incontri. E io c'era gente importante che, dentro i Celestini, che aveva iniziato a esporsi. Perché appunto quando si entra a parlare di un tema inizia la convergenza, inizia la capacità di poter stare insieme, perché si parla di questo. Ok, per cui dimostrare quest'area cosa voleva dire, facendo quella finta collina di protezione che non protegge, no? E così via. Ecco, oltretutto quest'area da una parte all'autostrada, dall'altra alla ferrovia Bologna-Bari, Grecia, okay? Cioè la ferrovia più principale. Okay. Va bene, tutta una serie di discorsi, luoghi, non luoghi. Poi un altro esempio, no? Esempi emblematici, quest'area qui. Quest'area, vedete, in un luogo dove c'è una forte domanda di verde, ok? La domanda di verde. Però lì proprio i cittadini è anni che chiedono del verde. A Bologna si sta bene, per cui prevalentemente si chiedono cose semplici. Però, ad esempio, è anni che chiedono del verde. E l'unica opportunità di tutto il quartiere era quell'area. Ovviamente quell'area costa molto. Un'altra cooperativa, sempre rossa, cioè sempre comunista, cosa fa su quell'area? Questo chiede. Siccome appunto Bologna aveva delle regole di garanzia, che poi diventarono legge regionale, e cioè quando io costruisco devo cedere del verde, e molto, a Bologna devo cedere del verde molto. Il verde che doveva cedere quest'area, che era veramente tanto, non lo cede lì, perché lì è costruire. Lo cede dove? Il meccanismo che fosse conoscente, lo cede fuori, in periferia, dove di verde ce n'è un casino, ce n'è tanto, ce n'è tanto. Per cui meccanismi che vanno avanti per 10 anni, ma che nessuno riesce a capire, perché l'informazione è assolutamente assente. Per cui, perché noi tecnici dell'amministrazione pubblica, io lavoro in un'amministrazione pubblica, Non, seppure magari siamo attenti, contenti, però non aiutiamo il cittadino a capire, non lo aiutiamo, abbiamo veramente delle giornate faticose per preoccuparci anche del cittadino, a meno che il mio lavoro non sia aiutare il cittadino, ma il mio lavoro non è aiutare il cittadino, il mio lavoro è fare del bene alla città, in un altro senso, oppure fare del male, quando invece mi dicono di fare del male, e se il cittadino viene a chiedermi informazioni, insomma, non è il mio lavoro. Magari sono gentile, però non lo aiuto. Aver spiegato questo meccanismo molto semplice ha aperto un mondo a della gente normale. Normale, gente che la sera guarda le televisioni di Berlusconi. Gente assolutamente normale. Gente che chiede il verde sotto. Ecco, abbiamo queste cose, le abbiamo fatte qua. Poi, un'altra cosa che abbiamo fatto, l'anno dopo, sempre in collina, abbiamo trattato un altro tema, quello della mobilità. Ecco, scusate, questo libro si chiama Dal piano regolatore al piano regalatore. Non so se si capisce anche in spagnolo. Sì, sì. Okay. Titolo scandaloso, cioè telefonate, ma come ti permetti di dire che io ho regalato le aree? Non lo so. Invece, è un titolo che ha fatto capire un casino, cioè il piano regalatore, regalatore. Oltretutto è una bambina che si è inventato, la figlia di uno dei celestini, che si è inventato questa cosa, mi dice papà, vabbè, questo. Infatti invece si chiama Il ferro fa bene ai bambini, perché vabbè, questo qui è sulla mobilità, e anche qui abbiamo studiato 5 progetti di mobilità, abbiamo descritto questi progetti. Ecco, oltretutto, qui ovviamente c'è un'attenzione a essere oggettivi, però oggettivi non vuol dire che non si valuta, la valutazione c'è ed è molto, molto evidente, e la valutazione è sempre fatta con un criterio, quello dell'interesse pubblico, cioè che interesse c'è stato a fare questa operazione, e lo conteggiavamo anche economicamente, cioè se io, Cooperativa Rossa, guadagno 100, di quel 100 quanto sono riuscito a prendere per la città? 10, 20, 30, 50, 80? In genere era 1, 2. Invece l'amministrazione pubblica in Italia può prendere molto, cioè Bologna prendeva molto. Bologna è riuscita a fare quelle cose di prima, la domanda, perché di quel 100 prendeva 50, 60, 70. Quando, oltretutto, appunto, eravamo in un periodo di governo, insomma, di destra nazionale. Per cui, ecco, però io non so se queste cose, cioè io le dico in modo accalorato, perché a Bologna abbiamo questi problemi, e li abbiamo oggi, poi vedremo qual è l'oggi, forti. E molto probabilmente a Barcellona, cioè da quello che vedo io a Barcellona, l'interesse pubblico se ne è fatto molto, per cui questo qui però è un mio giudizio superficiale, perché non conosco i meccanismi, magari non si è fatto. Però sicuramente rispetto a quello che è stato fatto, cioè a Bologna non è stato fatto un marciapiede, un'area pubblica, un verde, una scala mobile, un servizio per handicappati. Negli anni 90 non è stato fatto niente, per cui la situazione. Abbiamo vissuto di una rendita speciale molto forte, molto potente. Ok. Intanto i celestini erano cresciuti e nessuno capiva chi erano, ma infatti le domande che ci facevano sempre i giornalisti, perché avevano iniziato a telefonarci, cosa pensate di voi, ma chi siete? E veramente mi scoppiava la testa nel pensare che non eravamo nati per una funzione politica partitica, cioè perché non si sapeva, non eravamo un'associazione ad esempio vera, cioè Celestini erano un gruppo, insomma, era un gruppo. Allora, 10 anni fa la festa, c'è un numero alto di persone che ci aiuta a organizzare la festa, e nella festa ci succedono delle cose normali, insomma, per le persone normali. Per cui c'è una parte, una serata dove c'è una parte per diciamo così, di espressione da parte dei bambini, perché siccome alcuni di noi avevano dei figli, fra cui me, dovevi lasciarli. Per cui avevamo organizzato un gioco sulla città. Ecco, poi prima l'ho messo perché Xavier me l'ha ricordato, io me l'ero dimenticato. C'è stato uno, un matto, perché esatto, sapete, Bologna è famosa per la mortadella, è la patria della mortadella, e questo qui è il centro storico di Bologna ed è fatto da un architetto matto, perché è un plastico, una macchetta, come si dice? Una macchetta vera, in scala 1 a 1000 del centro storico di Bologna. Ci ha messo un mese per farla, un mese di lavoro. Matto, ma così erano tutti, cioè in quel periodo lì eravamo abbastanza matti. L'ufficio, l'ufficio dove lavoro è esattamente di quella dimensione, perché lì sono le colline col riso, cioè è una vera. Ovviamente c'era la fila di gente che lo voleva vedere. Cioè, quando, sembra, è una cosa populista, se vuoi, molto divertente, perché ci siamo divertiti molto. Però io faccio così, con mia figlia, se so che c'è una cosa come questa, che è quasi un gioco di mortadella, la porto, perché a un bimbo piace. E forse dentro di noi ci sono degli aspetti infantili che a volte ci rendono più sereni, no? E ci attraggono. E questa cosa qui attraeva persone, cioè il tipo che l'ha fatta ha deciso di farla senza dirci niente, per cui dopo, ormai era quasi alla fine, ci ha detto: sapete che ho fatto un plastico, una macchetta. Poi in quella serata lì, ad esempio, un altro, questo qui, sempre un architetto, ha fatto delle foto di cacche di cane, perché Bologna è famosa per i portici, il portico, si capisce? È la città con il portico, con il numero di portici più ampio, e nei portici c'è questo problema delle cacche di cane, per cui il problema della città nei giornali sembrava solo le cacche di cane, invece non è vero, cioè i problemi erano altri. Allora noi volevamo, e questo qui che è un artista in realtà, è uno che fa quadri, è un architetto, però la sera sotto ci sono delle scritte molto divertenti, cioè anche per questo qua c'era veramente la fila di persone che lo guardava. Poi ci sono stati dei balli quella sera, delle letture. Ecco, ad esempio, lui si chiama Stefano Benni, è un... non so se qualcuno di voi mi ha sentito nominare, è tradotto anche in spagnolo, però è uno scrittore di Bologna, molto famoso in Italia, che ha scritto un libro che si chiama La Compagnia dei Celestini, e noi ci chiamiamo perché dentro quel libro c'è una descrizione che funziona. Ecco, questa foto, però appunto, quindi tanti momenti, c'era anche il momento espositivo più serio, tanti momenti. Ecco, noi ci eravamo preparati per ricevere 150 persone. Ne sono venute, abbiamo distribuito 1000 volantini, ma sono stati 1500, non lo so, diciamo 1000, quindi. 1000 per Bologna, e cioè neanche il Partito Comunista riesce a fare feste da 1000 persone a Bologna. Quella festa lì ha spaventato tutti i politici bolognesi. Cioè hanno iniziato a aver paura di noi, cioè allora a quel punto lì ci chiediamo ma chi siete veramente? Cioè già ce lo chiedevamo prima, come avete fatto? Perché una festa di urbanistica urbanistica che chiama 1000 persone è una roba che infatti anche noi eravamo sconvolti. Ma ecco, allora, alla fine qui si trattano sette, cioè il tema è sette idee per un nuovo piano per Bologna. Sono degli slogan prevalentemente, ma siccome questi slogan li hanno fatti i cittadini, fra virgolette, consapevoli, cioè che per 4 anni avevano lavorato su dei temi specifici, non sulla politica in generale, ma su dei temi di governo specifico, dietro queste sette idee, dietro questi sette slogan c'erano delle idee più precise. Ora, nel giugno del 2004 la sinistra rivince, quindi c'è ancora un nuovo sindaco di sinistra, un sindaco molto importante perché è il capo del maggiore sindacato italiano, che si chiama Sergio Cofferati, e inizia una stagione di grandi speranze che però ancora non sboccia. Sboccia un fiore che si apre. Questa stagione, il programma amministrativo della nuova giunta, il programma urbanistico è uguale a questo, è molto molto simile a questo, e quindi noi abbiamo ottenuto in 4 anni di lavoro un risultato secondo noi molto molto molto molto buono, per dirlo senza modestia, senza tempo. Cioè in 4 anni di lavoro abbiamo cambiato, seppure ancora superficialmente, abbiamo cambiato a Bologna la lettura che si dà della città di Bologna e degli avvenimenti. Però, e quindi già siamo contenti di questa cosa. Nel programma amministrativo ci sono 10 temi circa. 9 sono molto astratti, molto poco concreti. 1, quello dell'urbanistica, è molto concreto. Ecco, però, ancora, è passato quasi un anno, a giugno sarà un anno, in realtà non è ancora successo niente. Anzi, alcune scelte che si stanno preparando non sono scelte, sono ancora scelte che hanno un'origine sbagliata. Ma questa volta i Celestini non riescono più a parlare. Cioè i Celestini quest'anno non fanno l'usuale seminario, perché non sanno più cosa fare. Non sappiamo più cosa fare. Dobbiamo capire da capo. È ovvio, un movimento, un'associazione ha dei cicli di vita, ok? E noi siamo in un ciclo di vita basso. Cioè siamo contenti che c'è stato questo risultato. Però ora in questo momento non sappiamo esattamente come comportarci, non sappiamo che cosa fare, e siamo molto spaventati, anzi abbiamo la certezza che siccome l'amministrazione attuale non ha cambiato neanche il tecnico, abbiamo la certezza che non verrà fatto qualcosa di buono, perché noi siamo tecnici, quindi è ovvio che pensiamo che è importante avere dei buoni tecnici. Ma siccome i politici nuovi non sono nuovi veramente, non hanno nessuna esperienza, la loro esperienza si forma quotidianamente col loro collaboratore, che è quello che c'era prima. Ma che c'era prima quando? Prima, quando c'era Guazzaloca, sindaco di destra, ma è lo stesso che c'era prima quando c'era Vitali, sindaco di sinistra degli anni 90. È sempre lui. Ma non uno, sono 5, sempre loro. Mobilità, urbanistica, edilizia, lavori pubblici, sempre loro. E allora, perché sono persone potenti forse, perché hanno soddisfatto bisogni potenti, quelli delle cooperative e delle imprese immobiliari. Per cui in questo momento siamo in un momento in cui la nostra esperienza forse è finita, forse c'è molto disorientamento, non sappiamo bene come fare. Secondo me appena succederà qualcosa ci riattiveremo. Noi in questo momento siamo chiamati continuamente, e non riusciamo a soddisfare questa domanda, dai cittadini, perché chiedono di organizzare progetti partecipati, Noi li stiamo aiutandoli su due progetti partecipati, ma non è il nostro lavoro, quindi lo stiamo facendo non tanto bene, per cui l'attività in questo momento è su questo argomento qua, progetti partecipati, su due aree importanti, due aree grosse, molto importanti, molto simboliche per Bologna. Una, si vede la prima, è il mercato ortofrutticolo, una grande area dismessa, un'altra invece è un'area verde della collina, e lì stiamo facendo questo lavoro con i cittadini e con i quartieri, col presidente di quartiere e col consiglio di quartiere del distretto di cui parlavamo prima. Però a livello comunale siamo zitti e facciamo bene a star zitti. Perché noi siamo continuamente, ci chiedono giornalisti, politici di intervenire, ma se non abbiamo studiato, se non abbiamo cose da dire, ponderate, serie, ci fanno fuori subito, cioè, per cui noi abbiamo la forza solo se abbiamo delle cose serie e ben pensate da dire. Non, sia i giovani che anche i celestini più maturi, più importanti, tutti hanno solo questa forza. Ora io, due ore, no, un'ora e mezza, spero che fosse questo l'argomento di interesse del vostro. Io sono veramente molto contento e vi ringrazio molto di poter fare questa cosa, perché quando la facciamo a Bologna, ci capita spesso, è molto più facile perché c'è una parte conosciuta, ormai molto diffusa a Bologna. Qui ho dovuto reinventarmi il discorso ed è stato molto utile. Io tornerò a Bologna con una gran voglia di fare celestini, che adesso non avevo tanto perché appunto ci sono queste crisi. Oltretutto quel video lì mi ha ricordato alcune cose. C'è qualche domanda?